24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qua. Buongiorno, buona settimana, cari ascoltatori. Sono le 6:33 minuti e siamo pronti per questa nuova settimana. Siamo fino alle 9 e sei è tornato l'alpino. Guardalo qua. L'alpino Peter Bescapelli in regia. Dietro di lui c'è Miriam Lucchetti in redazione. Sta litigando, non lo so con chi sta litigando, ma tra poco ci spiegherà tutto. E il nostro bar è aperto? Sì, quasi. A fatica, eh? È lunedì, quindi. Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. È lunedì, caffè offerto, la nostra moca già in azione da Nicole Minetti. Come sempre. Ah, tra l'altro oggi ci dovrebbe offrire lo champagne. Lo champagne! Pare scattato ormai il termine per il vitalizio alla regione Lombardia. È scattato ieri. C'è una diatriba su questo perché molti consiglieri della regione Lombardia dicono: ma no, il governo Monti ha abolito tutto questo, ha cambiato le regole. Il decreto Monti non è stato ancora approvato in Parlamento. Quindi, siccome è passibile di modifiche, rimaniamo alla vecchia normativa. E da ieri i consiglieri della regione Lombardia che sono al primo mandato, se non cambiano le regole, avranno diritto al vitalizio. Quindi oggi offre caffè e champagne col Minetti a Mirta Merlino. Buongiorno e ben svegliata. Buongiorno. Eccoci qua, che bella voce appena sveglia, eh? Mirta Merlino con noi. Oggi tra l'altro avrà una puntata sulla 7 dell'Aria che tira, ma ci dirà qualcosa tra poco. Saluto anche Carlo Rienzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato, presidente del Codacons. Grazie. Allora, si potrebbe iniziare da tanti temi, ma io voglio partire da quello che secondo me è diventato il personaggio degli ultimi giorni. Rienzi, l'ha sentito il prefetto di Napoli? No. No, quello signore, lei ci dia del prefetto, signor prefetto, non sa niente di questa storia. No, le devo far sentire. Mirta Merlino, tu hai sentito? Sì, ma allora, ma riunione. Signore è un bellissimo termine. Ma signore è un bellissimo termine. La situazione è questa: riunione alla prefettura di Napoli. Ci sono il prefetto, anzi il signor prefetto di Napoli, la signora prefetta di Caserta, autorità, sindaci, carabinieri, tutte. C'è un prete anticamorra, don Patriciello. Don Maurizio Patriciello, che non è, come dice lui, avvezzo a queste situazioni, no? E quindi si rivolge alla signora prefetta di Caserta, rivolgendosi così, signora, la chiama signora. Sentite l'audio, perché è un po' confuso, la chiama solo la signora, sentite. Al che il prefetto di Napoli si arrabbia di brutto. Mi ha ascoltato, la signora voleva convincermi che questo problema non c'era, io le ho detto che invece c'è. Di quale signora sta parlando? La signora. Signore è un prefetto della Repubblica. Quale signore? È un prefetto della Repubblica Italiana. Signor prefetto, non vuol dire. Comincia a fare questo, perché noi non sono dati agli occhi dei cittadini che possono essere, perché c'è anche un rispetto per le istituzioni. Perché l'ha chiamato solo signora, allora il prefetto di Napoli dice: ma la chiami signora prefetta? La conoscenza no, degli italiani, come reagirete? No. Non era mia intenzione offendere. Allora la guardi, chiami signor prefetto. Signore si nasce. Ci sono anche delle voci fuori campo di cittadini. Signori si nasce, gli dice questa. Cerchi di capire cosa le sto dicendo. Poi se vuole andare via può anche andare. Ma io le sto dicendo qualcosa di ben preciso. Perché rispetto allora, alle istituzioni, rispetto alla Costituzione italiana. Mi sono portato dalla signora prefetta di Caserta. Va bene, non era, signor prefetto, non era mia intenzione offendere. L'ha offesa, ha offeso anche me e tutti quanti. Carlo Rienzi, ha sentito, ha offeso me, ha offeso tutti quanti, tutti, perché gli ha detto signora. Mi ero distratto, l'avevo sentito. Ma no, ma oggi sta sui giornali. Il... Sì, no, ma è che a quest'ora uno può rimanere un po' di imbambitello. No. Il problema è che noi meridionali, io sono meridionale, appunto. Quando mi chiamano il dottor Rienzi, sì, un po' mi urto. E perché? Perché ma io sono avvocato, che dottore? Dice, sì, ma perché dottore è importante quando è avvocato? Capito, ma gli ha detto la signora, cioè non è una mancanza di rispetto. Signora, no? Però la cancellieri e la Severino, allora come la vogliamo mettere? Lo siete dimenticati? Ma ricordate quando si sono arrabbiati perché la chiamavano tutti quanti in televisione la cancelliere, la Severino, per l'articolo, la ministra, la ministra. Quindi vedi, è una cosa un po'... No, ma qui stava la forma, ma vogliamo sentire, perché il sito di Repubblica poi allora chiama il prefetto di Napoli. Ah, tra l'altro, cari italiani, sappiate che se ci si rivolge a un prefetto bisognerebbe chiamarlo Sua Eccellenza. Questo è proprio il decoro, vorrebbe questo, Sua Eccellenza. Allora si rivolge al prefetto di Napoli, Sua Eccellenza, non mi ricordo neanche come si chiama, Antonio De Martino, credo, si chiama Andrea De Martino, eccolo qua, e il sito di Repubblica gli chiede ma lei che ha fatto, e lui ribadisce che è l'importanza dei ruoli. Sentite, si tratta soltanto, guardi, di poter continuare a vivere a Napoli nel rispetto anche di chi lavora, ma esponendo notte e giorno la propria persona, quella di altri, dei ragazzi che sono in polizia, dei carabinieri, che guardano a noi sicuramente come signori, ma anche come prefetti e come questori, perché se cominciamo tutti a essere signori, dove lo troviamo più il prefetto? Mirta Merlino, se siamo solo signori, il prefetto dove lo mettiamo? Allora, a parte che io le abolirei. Ricorda bene in che paese vive, sì. Perché io, per carità, signora, ma insomma, lui vive in una città dove l'altro giorno un ragazzo è andato a salutare la propria fidanzata prima di una partita di calcetto ed è stato massacrato da una sventagliata di mitra per strada. Quindi mi pare che insomma c'è un problema di forma e sostanza, perché è un paese in cui il decoro e l'onore sono ogni giorno calpestati da quelli che fanno peculato, da quelli che vanno a mangiare le ostriche con i nostri soldi, da quelli che si comprano i voti dall'ndrangheta da 50 euro a voto. Allora, io mi rendo conto che bisogna anche avere una certa educazione formale, però mi sembra che un prete che combatte in trincea, sì, e cerca di fare bene il suo mestiere e nella foga chiama signora il prefetto. Ma poi mica è un'offesa, non offende la mia istituzione, mi offende molto di più che in un quartiere di Napoli un ragazzo viene ammazzato per strada per sbaglio e ahimè le istituzioni e il governo non vanno al funerale. Queste sono cose che offendono. O forse che al funerale, quel ragazzo non è mai stata pronunciata la parola camorra. Durante l'omelia non è mai stata pronunciata la parola camorra in quell'omelia, col prete che ha detto ma la camorra già uccide, non c'è bisogno di nominarla, non l'ha nominata. Ecco, questo forse offende di più, no? Il fatto che non sia stata esattamente la teoria opposta a quella di Roberto Saviano, no? Che più ne parli e più le dai fastidio. Esatto. No, incredibile. Comunque, signora, come se fosse un'offesa. Oggi, tra l'altro, Don Patriciello è intervistato da Repubblica e dice ma è qui, in questo modo di calpestare la dignità delle persone che si annida un po' poi la criminalità organizzata. Vabbè, qui magari lui esagera dall'altra parte. Certo che per questo signora... Si è creato un gran cancan con il prefetto di Napoli, qualcuno che ne chiede addirittura la rimozione, ma forse i prefetti andrebbero eliminati perché non servono granché, più che altro. Vabbè, ma questa è la mia posizione, vi voglio stimolare su questo anche perché credo sia un tema che oggi a Mirta Merlino faccia gola leggere sui giornali. Pagina 2 del Corriere della Sera, tangenti e finti poveri, la corruzione, quanto ci costa corruzione, truffe in questo caso, soprattutto all'INPS, quelle classiche, 3 miliardi di euro l'anno, l'ultimo rapporto della Guardia di Finanza. Mirta, credo che oggi tu te ne occuperai. Chi è che c'hai? Sì. È vero che c'è anche Pietro Grasso, il procuratore antimafia. Oggi viene da noi Pietro Grasso e appunto parliamo di corruzione. I numeri sulla corruzione ormai sono pazzeschi, nel senso che insomma l'ultima stima che aveva fatto che fa il libro bianco sulla corruzione, che peraltro viene presentato proprio oggi a Palazzo Chigi, parla di 60 miliardi e parla del 40% in più che noi paghiamo i nostri appalti, cioè insomma sono i soldi delle nostre tasse che finiscono in questa follia che invece di costruire per noi opere pubbliche, insomma, danno soldi a destra e a manca. Mm. se pensate che ci sono 90 parlamentari, in tutto questo, questa è una cosa che poi si lega naturalmente al tema politico, purtroppo, quello della corruzione, perché sono 90 parlamentari indagati, il 10% di senatori e deputati, 400 amministratori locali coinvolti per reati vari, e insomma è tornato prepotentemente alla ribalta il voto. Ah sì, guarda, oggi il Sole 24 Ore mette tutti dei numeri, te lo segnalo, a pagina 9 sono il 7% dei consiglieri amministratori regionali che hanno problemi con la giustizia a vario titolo e il 13% dei deputati, 13%, ovviamente sempre a vario titolo, Rienzi, ci sono quelli condannati, ci sono quelli che sono indagati che poi finirà in nulla, per carità, ma è tutto giusto, è tutto normale avere queste percentuali. È un problema etico e morale molto grande, anche perché insomma diciamo che corruzione e privilegi sono una sorta di pozzo senza fondo in cui non si finisce mai di scavare, e proprio mentre la gente sta male, perché è un momento in cui si fa fatica, diciamo che queste cose cominciano a fare una rabbia paventosa. Io non so se avete letto l'altro giorno l'intervista di quello lì, Pisciccelli, ve lo ricordate? Sì. Che rideva durante il terremoto dell'Aquila, pregustando i buoni affari che avrebbe fatto grazie al terremoto. Ha fatto un'intervista su Repubblica in cui ha detto con grande normalità delle cose veramente spaventose. Ha detto come ho corrotto tutti i politici, vi racconterò. Lui andava attaccata di anemone e sul tavolo c'erano dei mucchi di soldi, perché dice a Natale e a Ferragosto i politici battono cassa e bisognava riempirli di soldi. Poi dice di un signore come Bertolaso, che non so se vi ricordate, ma è stato considerato un eroe assoluto nel nostro paese per un po' di tempo, dice no, ma lui aveva il complesso del far bene, però poi aveva una sua tariffa, che era 50.000 euro. Sì. Con 50.000 euro faceva l'autore che gli chiedeva. Ovviamente no, è chiaro, tutte accuse che poi vanno dimostrate. Mi colpisce il fatto che dica Pisciccelli, che dopo quello che ha fatto... Ma è la totale normalità con cui lui racconta delle cose che a me sembrano totalmente abbastanza pazzesche. Abnormi. No, ma questo sì. Caffè. Grazie. Ma 5 caffè, veloce! Non lo fare acqua. Eccoci qua, siamo con Sua Eccellenza la signora Mirta Merlino e Sua Eccellenza avvocato presidente del Codacons Carlo Rienzi. Rienzi, così va bene? Sì, vabbè. Mi posso decoro su Radio 24? No, così siamo tranquilli. Rienzi, no, lei è sconvolto di tutti questi numeri, le percentuali di persone indagate? Io sono sconvolto per la corruzione, perché sembrava che dopo Mani Pulite, poi i giudici sono cominciati a diventare politici e quindi praticamente hanno abbandonato la battaglia. Ma vi vorrei ricordare un altro tipo di corruzione, quella dello Stato, perché quando noi ci troviamo di fronte a tasse ingiuste che non dovrebbero essere pagate, per esempio l'IVA sul gas, ormai non dovrebbe essere più pagata, così ad esempio la tassa di concessione governativa sui cellulari, noi paghiamo ancora una tassa che è stata dichiarata illegittima. Anche sulla TARSU, sui rifiuti. Sulla spazzatura. O che ne so, le accise sulla benzina che sono per il terremoto del Belice, o la tassa sul gioco d'azzardo che è un 20%. E la guerra d'Abissina è finita, come è finita? Queste sono cifre che sono superiori a quelle della corruzione. Allora noi come facciamo a dire il buon esempio lo dovrebbe cominciare dallo Stato? È una cosa terribile quella che ci fanno pagare tasse che noi dobbiamo fare causa per averle indietro. La tassa di concessione sul cellulare, per esempio. Ma che tassa è questa? Che tassa è questa? Mi era sfuggita. È una tassa che sta dall'inizio, era inventata i cellulari, lo Stato ha detto mi devi dare qualcosa a me per ogni abbonamento che fai. Quindi chi c'ha l'abbonamento al cellulare paga questo, cioè, 8 centesimi al mese, al bimestre, eccetera, che deve essere restituito. Sono sempre 400-500 euro negli ultimi 5 anni. Noi adesso abbiamo lanciato una campagna sul nostro sito per avere indietro questi soldi, perché non la tolgono, ed è una cosa che tra l'altro frena anche la vendita del prodotto, perché i gestori sarebbero contenti di averla tolta, perché potrebbero risparmiare gli utenti, no? È una cosa assurda, dichiarati illegittimi dalle commissioni. Sono problemi fortemente collegati, perché se un paese si deve caricare 60 miliardi di costi in più legati alla corruzione, deve dare appalti truccati dove tutti ci devono mangiare sopra, ma qualcuno paga e come sempre piovono pietre sui più deboli. Sempre qualcuno noi. Che deve tirar fuori dalle sue tasche i soldi delle tasse per far sì che questo Stato ormai obeso e corrotto vada avanti. Questo poi è un po' il Mirta, io ti volevo chiedere questo, tu che ti occupi di economia ma anche di finanza, che succede tra Bersani e Renzi? Ormai volano hedge fund in faccia questa cosa oggi sul Secolo XIX Renzi, poi me lo confondo con il nostro Matteo Renzi dice Davide Serra alle Cayman, quello che ha organizzato la cena. E allora Bersani spieghi MPS, c'è cioè Montepaschi Siena, Anton Veneta, la vicenda Telecom Colaninno. Sentiamo peraltro Bersani. Bersani si è arrabbiato per la querela di Serra. Serra è quello che ha raccolto i fondi per Renzi e che ha un fondo che ha anche legami con le Cayman. E allora Bersani, sentite. Ma può farci quel che vuole, io parlo di Cayman, io Davide Serra non so neanche chi sia, non l'ho mai incontrato, non lo conosco, quindi faccio come ritiene. Dove l'ho offeso? Dove? Non capisco dove l'ho offeso, non so perché si è offeso, non lo so. Comunque io parlo di Cayman, tutti quelli che hanno base alle Cayman, sto dicendo, noi italiani non dovremmo considerarli, punto, è questo che ho detto io e lo ripeto. Nessuno deve offendersi, credo. Se si offende sono problemi suoi. Allora, al di là del Mirta, al di là della querela, non querela, è interessante quello che dice Bersani. Tutti quelli che hanno base alle Cayman non dovremmo neanche parlarci. È giusta questa posizione di Bersani o esagerata? Allora, scusa, premetto che trovo che in un periodo come questo il fatto che il PD discuta da giorni di chi sta peggio, di chi parla con MPS, di chi parla con Serra, un po' lo trovo surreale, perché penso che gli italiani si aspettano tutt'altro dalla discussione interna al PD. Detto ciò, la storia di Serra è una storia abbastanza interessante, nel senso che questo signore decide di organizzare una riunione a porte chiuse a Milano per organizzare un fundraising, quindi soldi, per il candidato Matteo Renzi. Pare che la cifra minima che si potesse dare per questa serata erano di 1.000 euro, quindi una cosa anche abbastanza... E questo non c'è nulla di male, in America lo fanno sempre. Però cosa succede? Che questo signore fa anche un suo discorsetto, perché poi dopo ieri pubblicava il discorso di Serra, che aveva fatto una specie di grande discorso per spiegare a Renzi quali sono secondo lui i problemi del paese a cui bisogna dare una soluzione con tanto di slides, e comincia a raccontare che il grande problema del nostro paese è l'evasione fiscale. Sì. Poi dice: io vivo a Londra da 20 anni e pago le tasse. Fortunato lui, vengo in Italia solo per le vacanze. È come dargli torto, perché le vacanze in Italia sono una cosa bellissima. E in Italia vedo un sacco di professionisti, commercialisti, avvocati con la barca comprata grazie all'evasione fiscale. Allora, uno gli viene spontaneo e dice: scusa, ma tu le tasse dove le paghi? Ma lui dice a Londra. Che simpatico Serra fa parte di questa categoria che in Inghilterra è molto comune ormai, dei resident not domiciliated, cioè tu sei residente ma non domiciliato e paghi una tassa fissa forfettaria in Inghilterra, ma insomma pochi soldi per quelli che sono tanto ricchi, tant'è vero che è pieno di gente che ha fatto questa scelta. Sì. Tu vai la sera in un club chic di Londra, trovi tutti miliardari che insomma sono non ti convince moltissimo, quindi... noi italiani siamo dei cretini che facciamo delle evasioni da 4 soldi. Poi sono quelli fighi che vanno a Londra, fanno i resident. Attenzione, no, che qua partono le querele. Grazie Mirta Merlino, fermati qui con Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Vi trovo presto, vostre eccellenze. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanna fa, con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. La politica non deve essere per forza di persone che sono preparatissime, cioè la politica rappresenta tutte le categorie. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Siamo pronti alla lettura dei giornali, vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8.15 il senatore Piero Longo del Popolo della Libertà, anche l'avvocato, uno degli avvocati di Silvio Berlusconi. Parleremo di incandidabilità con lui, di questo progetto di legge per rendere incandidabili coloro che hanno una condanna a 2 anni, sopra i 2 anni, in Parlamento. Parleremo poi e tornerà con noi il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, questo alle 8.30, ci spiegherà anche queste circa 35-36 multe che ha preso con l'auto di servizio. Non guidava lui ovviamente, guidava l'autista, l'auto blu. E per capire anche quando si vota la Regione Lazio, perché non si capisce ancora niente. Quando sono le elezioni? Peter Biscapè, tu lo sai, quando si vota? È caduta la Regione Lazio, sai questo? Sì. Quando si vota? Boh. Ma non lo sa nessuno, non è che non lo sai solo tu. Non sono state ancora indette le elezioni, ma dipende dal presidente Polverini. Vabbè, andiamo a leggere intanto i giornali in edicola. È lunedì 22 ottobre, uno sguardo ai titoli. Statuto dei diritti violato 450 volte, questa è l'apertura di prima pagina del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera invece apre su province tagliate, ecco la mappa. Repubblica invece no alla legge Bavaglio, cresce la protesta per la legge che è nata per far evitare il carcere al direttore del giornale Alessandro Sallusti, una legge che però secondo Repubblica, già da ieri la denuncia, si sta trasformando in una legge bavaglio contro tutta la stampa. La stampa invece di Torino manovra lo stop di Bersani, questo è il titolo di apertura, così il Messaggero, fisco e scuola si cambia, e anche l'Unità, scuola il colpo è inaccettabile. Il giornale invece titola «Quando riavremo soldi, la crisi infinita», mentre il Fatto Quotidiano del lunedì fa tutto un reportage sul gioco d'azzardo legalizzato definito «droga di Stato», incassati 4 miliardi in 6 mesi, slot fanno il loro gioco, e ci sono i disegni di Monti, Berlusconi e Dell'Utri. Mentre Pubblico mette Monti e credo Catricalà, questa è una foto un po', si capisce poco, bocciati, questo è il titolo, è Profumo, il ministro dell'istruzione Profumo, con il cappello d'asino, Monti e Profumo bocciati, Bersani annuncia che le norme sulla scuola nella legge di stabilità sono invotabili. Allora, io voglio partire, come avete capito, ci sono articoli sulle province, tema tanto caro, è l'apertura di prima pagina del Corriere della Sera, ma c'è anche una pagina sul Sole 24 Ore, perché domani è una data importante, entro domani le regioni dovrebbero far sapere al governo come hanno recepito questo riordino delle province. Sapete che il governo ha stabilito alcune regole, una è il numero di abitanti e una è un'estensione territoriale. Chi non rispetta queste due parametri base di estensione territoriale e di numero di abitanti è una provincia che scompare e dovrebbe scomparire. Così, prima pagina del Corriere, appunto, ecco la mappa delle nuove province. Subito 36 in meno da giugno 2013 saranno tutte commissariate. Commissari nel 2013, racconta pagina 3 Lorenzo Salvia, niente da fare per esempio per Benevento, che invocava la storia del territorio sannita, o nemmeno per Rovigo, che sul piatto metteva la peculiarità del Polesine. Giorni contati anche per Treviso, che è troppo piccola di appena 23 chilometri quadrati. Ricordate il presidente della provincia di Treviso ai nostri microfoni che diceva: e noi ci annettiamo un comune, quello di Scorzè, oggi in provincia di Venezia, per diventare grandi abbastanza, ma pare che non ce l'abbiano fatta. Niente da fare anche per Terni, che pur di sopravvivere aveva suggerito il trasloco a qualche comune della vicina Perugia. Insomma, per il Corriere della Sera nulla da fare. Se entro domani non ci sarà il riordino da parte delle regioni, tutto passerà allo Stato, al governo centrale, col ministro Patroni Griffi che già annuncia: non possiamo pensare che una riforma così importante possa venir meno solo per resistenze localistiche. E hanno già annunciato l'anno prossimo chi non si adegua sarà una provincia commissariata. Ce la faranno? Ce la faranno? I dubbi vengono un po' leggendo pagina 15 del Sole 24 Ore. Già dal titolo sapete che in Italia c'è una parola che trionfa su tutto, sempre: province taglio con deroga. Siamo il paese delle deroghe. Con le deroghe si può fare tutto e aggirare qualsiasi tipo di legge in Italia. Scrivono Antonello Cherchi, Giuseppe Latour e Francesco Nariello che questo riordino atteso per domani in realtà prevede delle resistenze e vede delle resistenze incredibili da parte degli enti locali, perché solo Emilia Romagna e Liguria hanno stabilito una sorta di proposta che rispetta le indicazioni dell'esecutivo. Per il resto le regioni chiedono le deroghe. La Lombardia al record, qui l'ipotesi presentata che già prevedeva tre eccezioni per Monza, Brianza, Sondrio e Mantova, cioè da preservare, oggi forse con la giunta delibererà una richiesta a lasciare invariato l'attuale assetto, invocando di fatto 8 deroghe per mantenere in vita le province fuori dai parametri. Ma così anche nelle altre regioni, tutti a chiedere deroghe, e pare che 2 regioni ce la potranno fare. Quali sono le regioni per le quali anche il governo pensa le possibili deroghe? Sono Belluno e Sondrio. Queste 2 province pare che si salveranno. Ma sentite qual è la motivazione scritta sul Corriere della Sera. La motivazione è che sono zone di montagna e dunque il territorio è difficile. Dunque le montagne potrebbero salvare Belluno e Sondrio come province. Io questa mattina mi sono svegliato con una domanda, e che era questa: ma da oggi Nicole Minetti ha maturato il vitalizio da consigliere regionale a Regione Lombardia? Perché c'è un giallo su questo, un giallo sul quale molti consiglieri lombardi ci hanno anche scritto a dire: smettetela di dire che il 21 ottobre, cioè ieri, matura il vitalizio per i consiglieri regionali che sono al primo mandato, perché non è vero. Le regole attuali cambiate dal governo con un decreto approvato lo scorso 10 ottobre hanno stabilito che invece bisogna fare tutta una legislatura, anzi di più, bisogna fare almeno 10 anni e poi si otterrà il vitalizio solo dai 60 anni. In realtà il giallo rimane, come scrive oggi in prima pagina del Messaggero Diodato Pirone: lo scandalo senza fine dei vitalizi, poche regioni si adeguano alla stretta. Perché è vero che è stato approvato il 10 ottobre questo decreto che stabilisce da parte del governo che bisogna fare almeno 10 anni di mandato, in più bisogna avere 66 anni di età. In terzo luogo, d'ora in avanti al calcolo verrà applicato il sistema contributivo. Ma c'è un quarto punto: poiché i primi 3 punti devono essere scritti nero su bianco in leggi regionali, come previsto dalla Costituzione, le regioni che non dovessero adeguarsi si vedranno ridurre i contributi da parte dello Stato. Ma la domanda che giustamente Pirone si fa è: allora, sto benedetto vitalizio l'avrà o non l'avrà Nicole Minetti? La risposta definitiva è nelle mani della Regione Lombardia. Ovviamente Nicole Minetti, come tutte quelle che sono al primo mandato, e tutti quelli che sono al primo mandato, non solo Nicole Minetti, che però è stata presa emblema del vitalizio. Ebbene, la risposta definitiva è nelle mani della Regione Lombardia, che assieme a tutte le altre regioni si era detta disponibile ad accettare le indicazioni del governo anche prima del varo del decreto. Certo, si sono detti disponibili, ma si passerà dalle parole ai fatti? Non resta che aspettare mantenendo alta la guardia, cioè un giro di vite del governo va recepito con delle leggi regionali, e al momento poche giunte si sono mosse. Quello che si sa è che se non c'è un recepimento di quello che il governo ha stabilito, il termine 21 ottobre era ieri. E dunque Nicole Minetti, che come sapete è il nostro bar in onda alle 6.30 del mattino, ci offre sempre con la sua suadente voce un caffè per tutti, da domani ci potrà offrire anche champagne. La legge di stabilità che domani va in discussione al Parlamento vede le forze politiche molto molto contrarie. La legge di stabilità è quella che ha aumentato anche, che aumenterà l'IVA di un punto percentuale da luglio dell'anno prossimo e che prevede la riduzione invece delle aliquote IRPEF più basse di un punto percentuale. Ma per esempio Bersani, a Bersani non piace, e al PD, quello che c'è all'interno del tema della scuola. Bersani ha detto: così non la votiamo, soprattutto per quel che riguarda la scuola. Infatti Pubblico a pagina 3, Bersani attacca sulla scuola, il governo si fermi oppure votiamo contro. Che cosa c'è nella scuola, sul tema scuola, che non piace a Bersani? Beh, su questo il Messaggero secondo me fa la pagina più chiara. Pagina 5, Alessia Camplone: si parte da 700 milioni di tagli per i prof, 21 ore settimanali. Ammonta a 721, per la verità, in milioni di euro, la cifra che il governo conta di risparmiare dai provvedimenti sulla scuola inseriti nella legge di stabilità, dei quali l'aumento dell'orario di lavoro dei professori alle superiori da 18 a 24 ore la settimana è il dato più evidente. Ma non è l'unica norma che intende mettere a dieta il bilancio dell'istruzione. Si sta pure ragionando su un'ipotesi di mediazione, cioè di salire da 18 fino a 20-21 ore di insegnamento. Si parla di risparmi prudenziali, cioè frutto di una stima inferiore a quello che potrebbe ripercuotersi sotto forma di risorse anche umane sulla scuola. Ecco, questo non piace. C'è anche nessun ritocco agli stipendi, non piace anche agli insegnanti, che sono già abbastanza in subbuglio, soprattutto per l'ipotesi di aumento delle ore lavorative. Certo, però la legge di stabilità, sentite Stefano Fassina, che è il responsabile economico del Partito Democratico, non piace anche sul tema IVA e IRPEF. Intervistato dal Quotidiano Nazionale, Fassina, pagina 3, dice: IVA e IRPEF va cancellato tutto. Anche PDL e UDC stanno con noi. Vogliamo che vengano cancellati sia l'aumento dell'IVA sia l'intervento sull'IRPEF. Così Stefano Fassina, responsabile economico del Partito Democratico. L'accoppiata dei due provvedimenti aumenta le tasse, soprattutto per i redditi più bassi. È un'operazione iniqua e regressiva. E beh, certamente farà polemica questa posizione, se è la posizione del responsabile appunto economico del partito. Dall'altra parte anche il Popolo della Libertà, c'è un'intervista a Renato Brunetta, pagina 3 della Stampa, è totalmente contrario a questa legge di stabilità. Una legge sbagliata, siamo pronti a smontarla in Parlamento. Certamente confermeremo la politica di rigore e il pareggio di bilancio, ma stiamo ragionando su IRPEF e IVA, dice Renato Brunetta. Dunque, confermando, come dice Fassina, che quasi ci può essere un'intesa bipartisan da questo punto di vista. Da economista, aggiunge Brunetta, dico che l'intervento sull'IRPEF tocca poco il reddito disponibile, ma che l'incremento dell'IVA può avere effetti pericolosissimi in questa fase, col rischio stagflazione, cioè stagnazione economica e inflazione. L'opinione pubblica è molto preoccupata per l'incremento dell'IVA. Ricordo che dopo gli annunci del governo ci si era convinti che l'aumento dell'IVA non ci sarebbe stato. Ciò crea delusione, soprattutto perché questa manovra arriva dopo tutti i sacrifici che sono stati fatti. Prima cosa da fare, dice Brunetta, attaccare il debito pubblico, la chiave per una seria riduzione delle tasse. Bisogna ridurre la pressione fiscale su famiglie e imprese di un punto l'anno, e un punto vale 7 miliardi di euro. Insomma, questa legge di stabilità non piace sia a destra che a sinistra, e vedremo quando approderà domani in Parlamento. Quello che invece fa anche discutere la politica, noi ne parleremo con il senatore Longo alle 8.15, è questo tema della incandidabilità. Allora, cari italiani, voi volete che le persone che sono condannate a reati sopra i due anni siano incandidabili, soprattutto reati contro la pubblica amministrazione, ciò a cui sta lavorando il governo? Beh, il governo che ha tolto questa parte dal disegno anticorruzione pare stia accelerando però i tempi per prevedere questa norma. Incandidabilità. I codici dei partiti Questo titola pagina 15, il Corriere della Sera. Oggi, tra l'altro, ci sarà il rapporto sulla corruzione. Beh, guardate i dati pubblicati dal Sole 24 Ore oggi a pagina 9. Sulle regioni, su 1300 tra consiglieri e assessori, 95, dunque più del 7% del totale, sono indagati. Attenzione, abbiamo detto indagati, eh? Indagati vuol dire che poi magari viene archiviato tutto, magari c'è un'indagine in corso, magari c'è un processo in corso, non vuol dire colpevole, non vuol dire condannati, ma indagati. Sicilia, Lombardia e Calabria sono le amministrazioni con il maggior numero di inquisiti. Se arriviamo invece a livello parlamentare, il 13% degli onorevoli è finito di fronte ai magistrati. Ogni 8 parlamentari, uno ha avuto a che fare con la giustizia, anche qui a vario titolo, perché risulta o è risultato tuttora indagato, oppure perché è arrivato a affrontare il processo uscendone condannato. I reati sono diversi, c'è l'abuso d'ufficio, l'abusivismo edilizio, la discriminazione razziale, la corruzione aggravata, falso in bilancio, associazione a delinquere. Anche qui indagato non significa colpevole, è sempre bene ribadirlo, ma insomma tutta questa situazione fa capire che c'è forse necessità di una legge per porre dei paletti su questo. Quali paletti? Poi bisogna andare a capirle. Qui il dibattito, secondo Repubblica, sul tema corruzione e voto di scambio, Severino accelera. Severino è il ministro della giustizia. Mercoledì ci sarà forse già il pacchetto al Consiglio, al CSM, su che cosa? Sul voto di scambio, il caso ultimo dell'arresto dell'assessore Zambetti in Regione Lombardia, cioè si vuole porre un freno in qualche modo a questo, la possibilità, il rischio che qualche politico compri dalla criminalità organizzata i voti per essere eletto. A proposito di regioni, noi avremo appunto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, alle 8.30 insieme a Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Ma in Regione Lazio si vota? Non si vota? È un po' un giallo, perché le prerogative per stabilire la data del voto spettano al presidente della regione uscente, cioè Renata Polverini, che al momento non ha ancora fissato nulla, avanzando dei problemi tecnici, burocratici. Oggi il ministro all'interno Anna Maria Cancellieri scrive una lettera breve a Repubblica, pubblicata a pagina 10, dal titolo «Ridare la parola ai cittadini del Lazio». Ribadisce che lo statuto della regione danno esclusiva competenza al presidente regionale uscente per la fissazione delle elezioni nella regione Lazio. Desidero tuttavia confermare, scrive il ministro dell'interno, la disponibilità del governo e mia personale a valutare con leale spirito collaborativo ogni aspetto della questione. So bene infatti che in queste circostanze ridare rapidamente la parola ai cittadini è il modo più giusto per rispettare non solo le istituzioni ma uno dei capisaldi della democrazia. E anche l'Unità fa una pagina su questo, a dire a pagina 6, Polverini alle strette, Viminale in pressing, e cioè il ministro dell'interno chiede come mai non ci sia ancora chiarezza sulla data delle elezioni. Quando si vota? Boh, non si sa. Per quel che riguarda i partiti, beh, il centrodestra è alle prese con il Berlusconi silente solito, un Alfano che ieri ha annunciato una svolta, un Berlusconi che pare abbia chiamato Alfano, perché su Repubblica ieri titolavano che Alfano era stato ormai scaricato da Berlusconi, tanto che Berlusconi ieri ha preso il telefono, ha telefonato ad Alfano dicendo da Delfino mi hanno detto che tu ti sia trasformato in squalo. In realtà tutto a posto, una telefonata per riappacificare, per mandare il segnale all'esterno che tra noi va tutto bene, come titola a pagina 5 il giornale. Vabbè, rischia di diventare l'intervista del giorno quella all'onorevole Micaela Biancofiore, intervistata da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. L'intervista la trovate a pagina 10 e 11. Micaela Biancofiore parla delle Amazzoni. Le Amazzoni è la nuova, le Amazzoni azzurre è la nuova figura di donne vicino a Berlusconi. Beh, dice Micaela Biancofiore, tanto che il nostro rapporto è tale tra me e Berlusconi che si dice che tra di noi ci sia una sintonia che andrebbe studiata in psichiatria. Così l'onorevole Biancofiore, che poi ribadisce la Santanchè ha ragione, il PDL è finito, cambiargli nome badi bene non basta, serve una rifondazione totale con facce nuove dove non ci sia più spazio per un modo di fare politica alla Gasparri, ecco, l'ho detto così l'onorevole Biancofiore. Quale sarebbe questo modo di fare politica di Gasparri, chiede Fabrizio Roncone. Beh, lui mette sul territorio non le persone che hanno qualità, basta che sia un suo uomo, è il modo per controllare il territorio e dunque il potere. Il PDL è stritolato da queste logiche e comunque da Berlusconi non si prescinde. Così l'onorevole Biancofiore, che conclude l'intervista dicendo a Fabrizio Roncone: sabato mi ha chiamato Berlusconi e sa che mi ha detto? Beh, mi ha detto: visto che ormai sei un amazzone, mi toccherà regalarti un cavallo. Se a destra il problema sono le amazzoni azzurre, o meglio si dibatte su questo, a sinistra tra Renzi e Bersani da tre giorni ormai, verrebbe da dire, volano hedge fund in faccia invece che stracci, perché è tutto un parlare di Cayman, di finanza buona e finanza cattiva. Tutto nasce dal fatto che questa cena a Milano organizzata da Davide Serra, il fondatore del fondo Algebris, che ha anche un appoggio alle Cayman, tutto questo raccolti soldi per Matteo Renzi, ha fatto arrabbiare Bersani, che ha parlato di Cayman, ha usato questo termine banditi, o forse non l'ha usato, non si sa. Davide Serra ha querelato Bersani, che dice: io non l'ho mai offeso. Sta di fatto che oggi Matteo Renzi, intervistato dal Secolo XIX, ancora torna su questo Cayman, e allora spieghino loro l'affare Monte Paschi Siena e la scalata Telecom. Stiamo parlando, dice Renzi, di un fondo, quello di Davide Serra, che ha sede in Inghilterra e utilizza il diritto delle Cayman allo scopo di pagare le tasse solo in Inghilterra. È una procedura che chi conosce le regole del gioco della finanza sa che è normale. Non parliamo dei paradisi fiscali di chi evade. Anche il ministro Passer ha definito Serra una persona di grande qualità. Alle Cayman hanno sede l'80% dei fondi internazionali. E allora lì Renzi contrattacca: allora loro mi attaccano sulle Cayman, io ho semplicemente spiegato alcuni meccanismi da chiarire, diciamo che non hanno funzionato il Monte Paschi Siena, Banca 121, Anton Veneta, e poi ricordo la vicenda dei capitani coraggiosi, cioè Colaninno, che acquisirono Telecom, un'operazione molto discutibile fatta ai tempi in cui D'Alema era al governo e Bersani ministro. Insomma, attaccano e ci si attacca e contrattacca su questo. Renzi poi ieri da Lucia Annunziata ha detto: con me il PD può puntare al 40%, con Bersani al 25%. Su questo dibattito c'è Giuliano Ferrara, che fa il suo editoriale sul Foglio di prima pagina: Bersani e Vendola contro i banditi della finanza, osceno. Questo è il titolo dell'editoriale di Giuliano Ferrara, che scrive: quando sento Bersani e Vendola che straparlano male della finanza, accusano di banditismo i creatori e gestori di fondi internazionali, che minacciano l'interdetto contro il rinnegato Renzi per una modesta e innocente cena pubblica coi finanzieri, mi domando in che mondo vivano. Questo è l'esordio, l'incipit dell'articolo di prima pagina del Foglio di Giuliano Ferrara il lunedì. A proposito di stampa, c'è il dibattito molto forte, molto pesante, che si è molto molto appesantito in questo weekend sulla legge sulla stampa, che è nata per cercare di porre un argine al carcere ad Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, condannato a 14 mesi di carcere per diffamazione. Tra 7 giorni scatta la sentenza, anche se poi ci vorrà almeno un mese di tempo. Ebbene, ieri Repubblica con Francesco Merlo ha scritto un articolo denunciando il fatto che il tentativo di fare una legge per salvare Sallusti dal carcere si sta trasformando in un tentativo di punire tutta la stampa, ponendo per esempio delle multe salatissime in caso di diffamazione all'editore. E quindi che cosa comporterebbe questo, scrive Francesco Merlo? Che l'editore a quel punto interverrebbe, cercando di frenare possibili cause di diffamazione, interverrebbe in redazione sui giornalisti cercando di evitare le diffamazioni, e scrive Merlo quindi ponendo un freno al giornalismo d'inchiesta. Oggi Repubblica apre su questo: no alla legge bavaglio. C'è anche un'intervista al presidente della Corte Costituzionale, ex Gustavo Zagrebelsky, che dice: neppure il fascismo aveva previsto una disciplina del genere con il codice penale che interviene sull'editore. Così si colpisce la libertà di stampa, l'editore non può entrare nelle redazioni. Così dice Zagrebelsky, mentre Alessandro Sallusti interviene in prima pagina sul Giornale. In realtà è tutto un editoriale contro Francesco Merlo, che a un certo punto scrive: ieri mi ha definito su Repubblica un mestatore incallito. Che facciamo? Scrive Sallusti. Querelo? Così lui e il direttore Zio Mauro vanno in carcere per diffamazione aggravata e gratuita? Non ci penso neppure, purtroppo. Sono fatto così, la mia libertà di giudizio non è superiore a quella degli altri, per cui mi tengo stretta la prima e subisco la seconda. Ma Alessandro Sallusti fa tutto un articolo contro quello che definisce lui maestro mestatore, e cioè Francesco Merlo, che ieri appunto gli dava del mestatore incallito. Che dire, siamo sempre in rapida conclusione, allora devo leggere il titolo della Gazzetta dello Sport? C'è tempo? Peter Bescapè, c'è tempo? No, non c'è tempo, meglio così, tanto quest'anno il calcio è abolito. Speriamo l'anno prossimo di non dover leggere la prima della Gazzetta sulla Serie B. Siamo a parlare di attualità politica. Oggi lo vogliamo fare intanto con un ospite, un senatore, è il senatore Piero Longo del Popolo della Libertà. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno a loro. È anche avvocato di Silvio, uno degli avvocati di Silvio Berlusconi. Senta senatore, io su questo tema dell'incandidabilità in Parlamento c'è molto dibattito, si sta discutendo se porre un limite per esempio a chi ha una condanna per reati contro la pubblica amministrazione superiore a 2 anni. Secondo lei è giusto porre un limite, il concetto? Poi si può discutere di che limite, ma l'idea di porlo è giusto? Ma guardi, cioè, nel nostro ordinamento è già prevista la incandidabilità di condannati. Perché se sono stati condannati a una pena superiore a 5 anni sono interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, se sono stati condannati per una reclusione non inferiore a 3 anni sono interdetti per anni 5. Poi bisogna ricordare che ogni delitto, ogni condanna per delitto commesso con l'abuso di poteri o le violazioni inerenti a una pubblica funzione importa l'interdizione temporanea. Ma il problema è molto più vasto, evidentemente, più delicato, perché qui si tratta di fare i conti con l'articolo 51 della Costituzione, secondo la quale tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. E qui molti si sono dimenticati, fanno finta di dimenticarsi, che la Corte Costituzionale a tal proposito ha detto cose assolutamente molto precise. È stato detto dalla Corte Costituzionale già nel 1988, per esempio, che il diritto di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale, l'articolo 51, e quindi le leggi possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali. E quindi sa, si sposta sul piano del diritto penale. Del diritto quando anche. Sì, ma guardi, quando uno viene condannato, sì, la regola è questa: uno viene condannato, sopporta la sua pena e ritorna nel consorzio civile. Sì. Quindi a quel punto ha pagato la sua pena, se non è più interdetto ai pubblici uffici, non c'è nessun problema. Se... No, non dovrebbe esserci. Non dovrebbe esserci. Vera. Qui ormai stiamo rincorrendo con una forma qualche volta di isteria, scavalcando a vicenda sulla questa proposta di questione di decenza, la chiama Sergio Romano nell'articolo di ieri sul Corriere. Beh, l'articolo del questo notissimo opinionista lascia a me personalmente estremamente perplesso. Perché? Perché quando lui dice, quanti sono i candidati indagati, inquisiti, condannati in prima istanza e in attesa di appello sono quindi tecnicamente innocenti, ad opera questo avverbio. Una volta che leggi questo avverbio usato da Romano, tecnicamente, puoi anche non leggere il resto dell'articolo. Perché sono innocente, quindi. Però no, mi scusi, oggi no, certo, sono innocente fino al grado definitivo, fino al terzo grado. Senta, però oggi sul Sole 24 Ore, a lei non fa effetto leggere, se oggi legge il Sole 24 Ore, a pagina 9, regioni, 95 indagati, per l'appunto indagati, tra giunte e consigli, sono il 7% del totale. In Parlamento invece il 13% degli onorevoli è finito di fronte ai magistrati. Ma io le potrò dire anche di più. Io assisto con Ghedini da 14 anni e il presidente Berlusconi, non c'è stato un giorno che non sia stato indagato e non c'è stata una volta che sia stato condannato neanche in primo grado in questi ultimi 14 anni. Però ci sono vogliamo parlarne. Guardi che io e lei. Ma io non mi riferivo a Berlusconi. No, ma io sì, faccio proprio l'esempio di uno che è indagato per definizione, cioè da 14 anni. Ma guardi che lei ed io possiamo essere indagati e nemmeno saperlo, per esempio. Certo. E poi bisogna vedere indagati per che cosa. Ma ci sono dei condannati in via definitiva? È vero che hanno scontato la pena in Parlamento? Sono dei condannati in via definitiva? Magari Sì, certo. Questo è un problema. Ma guardi che i cittadini, c'è un problema. Non solo di questi condannati se hanno il diritto di essere votati, di essere candidati, ma c'è il problema anche di cittadini se hanno il diritto o no di scegliere di votare, per esempio, un soggetto che, essendo stato condannato, ha scontato la sua pena ed è tornato nel consorzio. Gli esempi che si potrebbero fare sono assolutamente banali. Sant'Agostino fino a 22 anni è stato un mascalzone di primo piano. Poi dopo è diventato uno dei santi più grandi della Chiesa. Ma non so, San Francesco d'Assisi, che è nostro patrono, buongiorno anche quello, prima di convertirsi. Guardi, c'è un altro argomento. Sì. C'è la misura di sicurezza. L'ordinamento prevede che le persone condannate, anche non condannate, se sono pericolose, debbano avere una misura di sicurezza, una misura di prevenzione. Su queste io sono assolutamente d'accordo. Che non potrebbero avere un elettorato passivo. Però, per esempio, ieri sul Corriere della Sera si raccontava la storia di questo laburista Bob Ashford, che ha dovuto rinunciare a una possibile carica pubblica perché si è scoperto che a 13 anni aveva preso una multa di 5 sterline. Sono matti questi inglesi? No, sono completamente matti questi inglesi. Queste sono forme che nascono da una visione così un po' manichea del mondo. Per cui si va a indagare, come ha fatto in Germania quando hanno visto, ma lui ha copiato una parte della tesi 25 anni fa, che brutta cosa, e si è dimesso, è sbagliato. Sono forme isteriche, secondo me, per carità. Poi dopo la politica ha le sue regole. Molta isteria vedo in giro. Però guardi, anche l'onorevole Paniz, che è avvocato come lei, qui ai nostri microfoni la scorsa settimana ha detto: fosse per me, io per i reati contro la pubblica amministrazione già porrei l'incandidabilità alla condanna in primo grado, quindi quel tecnicamente innocente a cui si riferiva Sergio Romano. Non ho mica nessun problema se Paniz ha un'idea diversa dalla mia o se io ho un'idea diversa da Paniz, cioè non mi preoccupa per nulla. Le opinioni, infatti, sono tali perché sono di solito personali. Se sono sostenute da argomentazioni di carattere tecnico, anche di carattere politico, allora sono tutte... E di carattere etico? Lei di carattere quasi etico? L'etica quasi, non mi parli dell'etica della politica perché non c'entra nulla l'etica con la politica. Perché? In che perché senso? No, perché i migliori politici con l'etica forse non hanno mai avuto nulla a che fare. Quale etica? L'etica del comportamento personale? No, ma dovrebbero essere i migliori in Parlamento. I migliori sono quelli, diventano migliori perché sono votati e poi dimostrano di essere i migliori quando esercitano la loro funzione. Però lei dice l'etica con la politica non c'entra nulla. Scusi, le posso ricordare che Massimo D'Azeglio, per esempio, veniva soprannominato per la sua vita disinvolta sul piano personale lo sporcaccione? Posso ricordare che Churchill era spesso non alieno dall'assumere sostanze alcoliche ed era quindi ubriaco ed era un grandissimo statista? Sì, però no, voglio dire, questi sono magari vizi personali spiego io cos'è l'etica. Secondo me, sì. Qui no, l'idea che devono andare i migliori è un'idea che porta all'aristocrazia. Allora i migliori sono quali? Adesso sono i migliori quelli che sono al governo. che sono bocconiani. No, ma io non dico questo. Professori. Secondo qualcuno, migliori sono quelli che hanno una fedina penale specchiata, per esempio. Non c'entra nulla. La... Non c'entra. Sì. Va bene, cominciamo dalla fedina penale specchiata. Torniamo al discorso di colui che ha fatto commesso un fatto di reato e che poi si è riabilitato. Vogliamo tenerlo fuori dal consorzio umano? Tenetelo fuori. Mm. Io non credo che debba essere tenuto fuori. No, no, ma questa è un'idea in discussione. Senta, le chiedo questo, senatore. Per molti analisti della politica, Berlusconi attenderebbe di capire se candidarsi o no in base al primo grado, al processo, il cosiddetto processo Ruby, la prima sentenza. Lei che ne è avvocato ha questo sentore oppure dice non c'entra niente il processo? No, con le sue non c'entra nulla il processo. Sai perché non c'entra nulla? Perché una condanna eventuale in primo grado non tocca il principio della presunzione di innocenza dell'imputato. Questo sì, però l'opinione pubblica magari si fa un'idea. Allora, l'opinione pubblica è fatta da cittadini, attenzione. Poi vota l'opinione pubblica. Ma sì che vota, ma l'opinione pubblica è fatta da cittadini, dal popolo e dalla piazza. Sono la stessa cosa vista da tre punti di vista diversi. Ci si rivolge ai cittadini, qualche volta ci si rivolge al popolo, mai si bisogna rivolgersi alla piazza o sentire i rumori della piazza. Devono sentire gli umori del popolo e soprattutto le idee dei cittadini, ma questa è un'opinione politica che cioè sì no ma questo sì, ma lei non crede che un'eventuale condanna in primo grado potrebbe in qualche modo condizionare il voto di molti italiani, a dire, e non potrebbe voti. Pensare anche che potrebbe essere in positivo, che avendo visto una persecuzione di una vicenda assolutamente irreale, la gente pensi di poterlo votare per dargli un sostegno all'esterno? Beh, questo poi lo giudicano gli elettori, lo stabiliranno loro. Senta, secondo lei il PDL è morto, è finito il Popolo della Libertà? A me non risulta, non mi hanno detto nulla in proposito, quindi credo proprio che non sia morto. Però molti lo dicono, ci sono, lo so, oggi anche l'onorevole Santanchè, l'onorevole Biancofiore, oggi sul Corriere dice il PDL è finito. L'onorevole Santanchè tanto non è neanche onorevole, è vero, sì, è no, no, ma tutti parlano, tutti dicono, c'è una fibrillazione che prende dall'esterna sinistra fino a destra, questo è fisiologico. Noi siamo attualmente con un governo imposto dall'alto che è stato accettato per ragioni evidentemente di stato di necessità nazionale. Parlare di fisiologia della politica elettorale in una situazione di questo genere sembrerebbe un paradosso. Un'ultima domanda, intanto la ringrazio e la saluto, ma quella stretta di mano tra Silvio Berlusconi e Ilda Boccassini l'avete studiata voi avvocati? Dica la verità. Ma nemmeno per sogno. L'onorevole Berlusconi è una persona educata e gentile. Questo senza dubbio, mica dico che sia un maleducato. No, e la dottoressa Boccassini è una persona altrettanto educata, forse un po' meno gentile nel tratto, ma è una questione di personalità. Non trovo assolutamente nulla di particolare. È stata immortalata per la prima volta una foto, i due grandi avversari degli ultimi della giustizia degli ultimi vent'anni, insomma è stato un momento anche a suo modo storico, ecco, questa stretta di mano. In qualche maniera, se volete, sul piano dei media questo potrà avere un significato, sul piano invece così personale a me pare che sia corrispondente alla propria personalità del presidente. Anche perché gli ha detto che siete terribili voi avvocati con le parcelle, con le parcelle. No, questa è una vecchia questione. Lui continua a parlare delle parcelle pagate ai suoi avvocati, mescolando quei dati penalisti e quei dati civilisti. I civilisti fanno le parcelle sulla percentuale del contratto. Io ho visto una volta un contratto di 500 miliardi per cui la parcella di lire, per cui la parcella era dell'avvocato civilista che aveva fatto il contratto di 1 miliardo. Accidenti. Chi è questo avvocato? Mi dica il nome. Ma sono le percentuali previste. Sì, mi dica il nome di questo avvocato. No, giuro che non lo ricordo. Ha visto la fattura e non ha visto il nome. Un miliardo di percentuali. Ma guardi che è normalissimo. Beh, certo, la percentuale. Guardi che un penalista non si arricchisce, un avvocato penalista può vivere molto bene, ma non si arricchisce quando può arricchirsi un avvocato civilista. Ma per queste ragioni, non... No, no, va bene. Intanto, tanto la ringrazio. Buona giornata. Prego, buona giornata al senatore Piero Longo, del Popolo della Libertà, anche avvocato, uno degli avvocati di Berlusconi. Avete sentito, ha detto l'etica per lui con la politica non c'entra. Con noi c'è un gradito ritorno il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese. Presidente, buongiorno. Buongiorno Mila, buongiorno a tutti. Ecco, come va? Bene, bene. Intanto, anche se non dipende dalla regione, dipende dal presidente Polverini, perché non si vota? Cioè, che si sta aspettando a fissare la data del voto? Guardi, la presidente ha a disposizione, secondo le norme statutarie regionali, 135 giorni, quindi 90 giorni per l'indizione e 45 giorni per la fissazione della data del voto. L'altro giorno ho ricevuto una sua lettera per verificare ovviamente la disponibilità del Consiglio, sì, a valutare con grande rapidità la riduzione del numero dei consiglieri da 70 a 50, quindi si sta aspettando, almeno credo, quindi si sta aspettando ovviamente di predisporre un decreto che sia inattaccabile, insomma. Ma un decreto di che? Un decreto di cosa? Un decreto, cioè da parte di chi? Da parte della Presidente, perché a lei spetta di emanare il decreto con la data, il numero dei consiglieri e le circoscrizioni. Ah, perfetto. Quindi, cioè lei vorrebbe abbassare da 70 a 50 consiglieri regionali alle prossime elezioni. Ma guardi, più che lei, diciamo che il decreto, la riduzione del numero dei consiglieri è prevista dal decreto legge numero 174. Nel decreto legge prevede, ovviamente richiamando il decreto legge 138 del 2011, prevede una ripartizione dei seggi a livello nazionale per tutte le regioni d'Italia, con un taglio, certo, con un taglio di 300 consiglieri. E nel decreto ovviamente ci sono degli adempimenti importanti, quindi la lettera che lei fa al Presidente del Consiglio regionale, di conseguenza invoca i capigruppo ad una riflessione, non è solo la riduzione del numero dei consiglieri, e va bene anche degli assessori, perché gli assessori saranno ridotti di un quinto rispetto all'Assemblea legislativa, ma nel decreto ci sono una serie di adempimenti importanti che devono essere adottati entro il 30 novembre del 2012, pena il mancato trasferimento nell'anno successivo dell'80% dei trasferimenti. Allora, vabbè, ci sono 135 giorni. Intanto, aspetti, mi lascia salutare Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Buongiorno e ben ritrovata, Fiorenza. Buongiorno a voi. Allora, presidente abruzzese, intanto, prima di parlare di cose politiche, devo chiedere di questo. Le multe, che ride, ha preso 35 multe, 38, guardi, quante so? Lei ha preso la multa con l'auto dell'auto blu. Tutti gli italiani prendono le multe. Quindi, sì, ma lei non le paga, lei non le paga, le paghiamo noi. In effetti, quando si viaggia dalla mattina alla sera, soprattutto uno come me che fa 400 chilometri al giorno arrivare in... D'accordo, un orario, vabbè, però no, la domanda è questa, queste multe, chi le paga? Sia onesto. Io sono sempre onesto, guardi, ho avuto anche il coraggio di raccontare la verità per quanto riguarda i trasferimenti ai gruppi. Poi ci arriviamo, ma mi dica chi le paga. No, ma ci arriviamo, ma mi dica chi le paga, guardi, queste multe. Quando una multa viene elevata nei confronti di una personalità pubblica, in questo caso lei, un rappresentante dell'istituzione, nell'esercizio delle sue funzioni, le paga ovviamente il Consiglio regionale. Eccolo là. Cioè noi, Presidente. No, come sì, ma le paghiamo noi, capisce? Ma perché le deve pagare il Consiglio regionale? Allora vada più piano, non le prenda. Dica all'autista di non correre. Va bene, ma infatti non si prendono più queste multe, quindi... Non si prendono più. Fiorenza Sarzanini, partiamo da questo aspetto, se si vuole, di colore. E il presidente abruzzese ci dice che non paga il Consiglio regionale, perché nell'esercizio delle funzioni. E quindi che dobbiamo fare? Ne paghiamo noi. Paghi un po' anche noi, un po' anche te. Pagato molto anche non nell'esercizio delle funzioni di tutti i consiglieri, assessori, quindi... diciamo che le multe sono uno degli aspetti odiosi di questa storia, non il più grave secondo me, ma sicuramente no, molto grave, anche perché ricordiamo che ci sono centinaia di migliaia di italiani che per le multe sono sottoposti a procedimenti da Equitalia con pignoramenti, quindi ognuno di noi vorrebbe avere qualcuno che paga le multe. Cioè, presidente abruzzese, glielo chiedo con onestà, ma perché lei non le paga lei di tasca sua? Ma guardi, cioè, perché... per il momento, adesso non mi tiri fuori il regolamento, capisco no, che... No, però... non si preoccupi, non tiro fuori il regolamento, ma perché le multe vengono chiaramente trasmesse e intestate direttamente al Consiglio regionale. Sì, ma lei faccia un gesto, dica, guardate... Un gesto di generosità, verifichiamo quante multe sono, quindi, anche perché onestamente... non conosco né l'entità né il numero, perché 38, ripeto, dice il messaggero. Stamattina ho convocato il direttore proprio per verificare sia il numero che l'entità delle multe. Dopodiché Milan ci risentiamo per mi fa sapere quante ne pare. Come abbiamo fatto per i monogruppi, non so se si ricorda. Sì, sì, io sì, sono, sì, uno sì. Che, sono uno che sa assumersi le responsabilità. Sono stati tolti dal futuro. Dei a proposito di responsabilità, allora, visto che era il presidente del Consiglio abruzzese, Fiorenza Sarzenini, vuoi fargli una domanda sul fatto della questione dei fondi ai gruppi? Perché è nell'ufficio di presidenza che abruzzese presiede che si è gestita questa cosa. Cosa dei fondi che hanno portato poi alla vicenda, eccolo qua, certo, è tuo Fiorenza, se vuoi fare la domanda che voglio fare è quella che tutti vogliono fare dal primo giorno: qual era il motivo vero, reale, qual era la necessità vera, reale per cui in due anni alla Regione Lazio si è passata da un'erogazione di 1 milione di euro a un'erogazione di 14 milioni di euro? Presidente. Ma guardi, intanto io ho avuto, diciamo, il coraggio di dire queste cose con un'intervista sul Tempo con ospite di Mario Seghi, quindi sì. Non ho paura di ripeterlo. Scusi Presidente, il coraggio non lo capisco, nel senso che questa cosa è stata scoperta, nessuno ha avuto il coraggio di raccontarla. Però lei l'ha ammessa, però una volta che è stata scoperta. Ma libere, la domanda però era diversa, Presidente, sì, perché da 1 milione a 14? Ma intanto, cioè... intanto non era 1 milione, perché il milione del 2010... preventivato e deliberato riguardava esclusivamente il primo trimestre del 2010, non so se rendo l'idea, quindi erano perché 4 milioni e vabbè, perché, euro, perché sono saliti a 14? Perché sono saliti a 14? Per un semplice motivo, perché con le elezioni del 2010 il nostro regolamento prevedeva e prevede ancora un limite massimo per quanto riguarda le assunzioni presso i gruppi, quindi il limite massimo era il gruppo di 13, siccome sì. Avevamo gruppi da queste elezioni del 2010 che arrivavano a 17, 18, 19, quindi questi gruppi mi chiesero ovviamente di modificare la tabella per spostare, quindi questo io non l'ho concesso. Cioè questo io non l'ho come concesso, non l'ha concesso? Non l'ho voluta modificare questa tabella, questo regolamento tra l'altro esiste, è lì depositato, e in diciamo commissione bilancio si è deciso di spostare una somma che già era diciamo destinata al Consiglio regionale per le spese di funzionamento e sono stati spostati allì. Sul capitolo di finanziamento. Fiorenza, Fiorenza stai seguendo? Questo, hai capito? Questo Fiorenza. È il meccanismo. No. Infatti c'ho qualche domanda. Ma infatti, cioè, sei capito? Che, guardi, no, facciamo così, che... no? Fiorenza, hai capito? Io ho capito metà, insomma. Sono disponibile a continuare il racconto. Sì, esatto, però facciamo così, domanda e risposta. Fiorenza, penso che al di là poi dei cavilli e dei dettagli sulle cifre, io penso che noi dovremmo fare un discorso serio, e questa è la domanda che vorrei fare al Presidente abruzzese. Lui dice abbiamo avuto delle esigenze per portare da 4 milioni a 14 milioni, poi siccome io mi aspetto dai politici che si occupano di appunto istituzioni, soprattutto di regione o di comune o di provincia, comunque di istituzioni che sono in qualche modo al servizio dei cittadini, mi aspetto che poi controllino quello che accade, perché altrimenti siamo in balia del nulla, come poi si è visto era alla Regione Lazio. Voi possibile che non vi siete resi conto che quei soldi erano troppi e che quindi non erano usati assolutamente per il funzionamento dei gruppi, ma semplicemente per fare una bella vita? Perché Presidente, lei dice c'erano più esigenze dei partiti, abbiamo spostato i fondi da un capitolo di spese a un altro, però poi dopo non vi siete accorti di come venivano spesi? Nel momento in cui, intanto per opportuna precisazione, tutto ciò viene con una modifica di un maxi emendamento in aula, perché vorrei anche ricordare questi passaggi, sì. Perché molti consiglieri magari fanno finta anche di non ricordare, di non sapere. Sì, ma lì sapevano tutti, eravate tutti d'accordo, questo si sa. L'ufficio di presidenza, nel momento in cui assegna le somme ai gruppi, ne perde le tracce, perché queste somme vanno su un conto dedicato ed intestato al capogruppo, quindi il controllo da parte dell'ufficio di presidenza è suo del capogruppo, viene meno, perché non si può entrare nella gestione di un conto corrente dedicato. D'accordo, però Presidente abruzzese, glielo stiamo chiedendo. Noi però non sapevamo. Va bene. Noi non sapevamo l'utilizzo di queste. Però Presidente, mi scusi. È importante, perché poi altrimenti facciamo passare solo le cose negative. Allora dico che ci sono anche le cose negative, ma questo Consiglio regionale ha fatto delle cose straordinarie in questi 2 anni e mezzo, approvando delle leggi importanti come il piano casa, il piano del turismo, l'aiuto alle imprese, il sostegno ai disabili. Sì, ho capito, Presidente, ma non ci venga. Vabbè, ma io siamo d'accordo. Non possiamo, voglio dire, mettere in luce solo le cose negative. Mediatico solo. No, però questo spreco, soprattutto mi faccia fare questa domanda. No, è importante questo. Poi sono qui a disposizione, lo sa che lì io non scappo. No, certo. Poi non bisogna fare tutta l'erba un fascio di chi va bene. Ma no, ma queste però ma certo. Sul conto corrente, però le chiedo, ma mi scusi, questo aumento da 4 milioni a 14, c'era davvero un aumento da 4 milioni e mezzo a 14 così necessario per gestire un po' più di soldi? Io faccio l'arbitro dell'assemblea, quindi faccio. Ma lei d'arbitro può dire: questo è troppo. Guardi, è un po' come dire, no, la responsabilità. Lo cito sempre questo esempio per far capire bene il ruolo del presidente del Consiglio regionale, il ruolo del presidente dell'assemblea. Un po' come dire che le responsabilità di una non riduzione del numero parlamentari e di Fini e di Schifani non può esistere, tutte queste cose vengono approvate direttamente dall'aula, quindi il conto consuntivo del Consiglio regionale è stato approvato dall'aula all'unanimità. Mi faccia fare una battuta, perché lei, Presidente, Fiorenza Sanzanini, Presidente abruzzese, dice: no, non è che si nasconde, però lei dice sempre: le mie responsabilità sono minime. Però lei prende un bello stipendio di 13.000 euro. Quindi. Non ho detto che sono minime, Milan, non l'ho detto. Quindi ho detto che mi assumo le mie responsabilità politiche. Ci mancherebbe, io faccio politica, quindi è giusto che io assuma le responsabilità, ma non posso assumermi le responsabilità penali e giudiziarie, perché le responsabilità penali e giudiziarie sono dei singoli e non appartiene Fiorenza, la vicenda Fiorito e anche Maruccio, capogruppo dell'IDV che è sotto indagine, è davvero come ci dice il Presidente Abruzzese. Intanto tutti sapevano, tutti erano d'accordo, tutti si votavano questa cosa, adesso tutti si tirano un po' indietro, ma è così. Ma certo, infatti la domanda, poi dopo non ne faccio più, però poi la domanda che mi piacerebbe, alla quale mi piacerebbe rispondesse il Presidente abruzzese, è questa, nel senso che Maruccio, Fiorito, tanti altri, perché poi i controlli non sono terminati, poi c'è chi è stato più bravo, però che questi fondi venissero utilizzati da ognuno come voleva non è un mistero. L'ultima capogruppo, che poi dopo appunto è durata in carica soltanto un giorno, che ha 26 anni, ha detto che Chiara Colosimo ha detto che era stupita del fatto che i cittadini fossero stupiti che loro guadagnavano 13.000 euro al mese, quindi che anche in tempi non di crisi economica queste dichiarazioni stridono un po'. Il problema è appunto la responsabilità politica. Allora io quello che credo poi i cittadini vogliono sapere questo: nel momento in cui non c'erano più i soldi e si è deciso di tagliare posti in ospedale, si è deciso di chiudere, perché non si sono tagliati quei soldi? Strutture. Io cito sempre il caso della struttura per i bambini disabili. Quando c'è stato la storia, l'arresto di Fiorito, c'erano 34 famiglie che hanno raccontato di come la struttura di assistenza per i loro figli disabili fosse stata chiusa dalla regione per mancanza. Cioè, tu la domanda che vuoi fare è perché allora non si sono tolti sti soldi? La politica di un amministratore. Abruzzese, perché non avete tagliato lì invece di tagliare altrove? Quando vi siete resi conto che poi era crisi, potevate tornare indietro e dire... Se facciamo, diciamo, se creiamo una marmellata poi non si riesce più a discutere. Allora, lei ha ragione, ci mancherebbe altro. Voglio dire, è chiaro che queste esigenze hanno la priorità, ma quello era un fondo dedicato al Consiglio regionale, spese di funzionamento e gestione del Consiglio regionale, quindi non sono fondi distratti dall'ospedale, dal finanziamento. Erano cose a parte, settori a parte. Io ho 30 secondi. No. Era un capitolo diverso, quindi. No, ho 10 secondi. Ho 10 secondi. Le faccio una domanda, mi promette di rispondere sì o no, se no sforo. Renata Polverini, secondo lei poteva non sapere di tutto questo? Ma guardi, la giunta sapeva. La giunta sapeva, quindi il presidente di giunta Renata Polverini sapeva tutto questo. Questo cittadino sapeva tutto questo. E perché secondo lei dice che non sapeva niente? Ma guardi, lei dice di non sapere di come venivano utilizzati questi fondi, e questo è vero perché neanch'io come venivano utilizzati, anche perché non è possibile conoscere la finalità. Sì, certo, è chiaro. Sapeva che c'erano, ma non sapeva come venivano gestiti. Mi devo fermare. Grazie Mario Abruzzese, Fiorenza Sarzarini del Corriere della Sera, inviata. Ci ritroviamo domani alle 6:30.